init for you. Init Ciora music for you. Con contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Music for you ritorna, nuova settimana in nostra compagnia. Questa è Radio Sherwood 97800, Radio Sandona 102.2. Il momento topico è arrivato per la popolazione sandonatese tutta. Padova si sgorli. Esatto, Padova proprio si crogioli nel miele, per voi, piacere. Comune satellite di noi altri, vi parliamo alla casa bassa di Sandona di Piave, provincia di Venezia, e trasmettiamo quest'oggi un po' come la colonia congolese, sì, del Belgio nell'Ottocento. Esatto, quest'oggi con Paul and the Bonopolis, il fenomeno emergente della bassa Piave. Le nutrie si esagitano e noi ce li abbiamo qua, siamo riusciti a rubarli. Non le nutrie. Sì, siamo riusciti a rubarli. A che esibizione abbiamo rubato? Che cachet avete rinunciato per essere qui? Ditecelo subito per cortesia. Abbiamo rinunciato al cachet offerto dal Rais Muammar Gheddafi per il concerto di addio alla Libia. Beh, sì. Ti lascio solo immaginare quanto ci aveva offerto. Immagino. Io mi dissocio. 200 odalische li aspettavano nel deserto. Loro scelgono Sandonà. Le odalische è una cosa, ma sono i 500 cammelli, ragazzi. Che sono... Tra l'altro con 200 cammelli pronti da mungere. Esatto. E che io so che Sconce è un abile mungitore di cammelli. Sì, di vecchia tradizione di famiglia. Sì, bisogna dire che Sconch parte con i dromedari, poi si specializza nei cammelli perché è più difficile stante le due gobbe. Perché tutta questa discussione? Non ne ho la minima idea. Era per inaugurare la puntata. Ghiaccio libico. Ghiaccio libico, lo conoscono tutti, e soprattutto il ghiaccio che ci siamo portati appresso, visto che ci avete lasciato al freddo al gelo per settimane, mesi. Pole nel Monopolis, da dove mi saltate fuori? Perché queste scelte di dubbio gusto? Perché delle copertine ancora più allucinanti, che a me piacciono tantissimo. Tra l'altro io vi raccomando l'EP, chiedetelo ai polis in internet, poi ci sono tutti i riferimenti. Certo. È un oggetto d'arredamento, secondo me, bravissimo, di un certo spessore. E se non li prendete in internet, seguiteli nei loro concerti, che poi ci descriveranno ampiamente. No, è stato bravo Daniele a dire oggetto d'arredamento, perché noi facciamo rock d'arredamento. Funziona anche come ottimo fermaporta nelle posizioni più originali. Di ispirazione per le serate da soli a casa, di autoerotismo, momenti realtà, di onanismo, no? Momenti di onanismo, a esatto, una certa velocità. E io vi ricordo anche che il singolo dei Pole and the Bonopolis cambia colore con il tempo. Voi lo vedete bianco anche se viene bagnato comunque. Si ingrandisce se viene bagnato. Comunque poche porcate, ma anche molte, perché voi rappresentate questo ed altro, dai, si può dire il vostro, sì, rock. Rappresentiamo tutto quello che il rock non ha più voluto dire da diversi anni a questa parte. Diteci che vi rifate un po' anche agli Schianto. No, certo. Paghiamo un po'. Adesso, se dobbiamo proprio passare 10 minuti o 10 secondi, meglio, di serietà, diciamo che sì, ci rifacciamo un po' a tutta quella tradizione del rock demenziale e satirico italiano, quindi Schianto. Però. Se ne sentiva la mancanza, sì, dici? Sì. No, beh, sì, perché no. Dici, dobbiamo fare nomi di band che stanno un po'... I Modà. In Modà. Per esempio. Applauso per i Modà. No, oppure stai forse dicendo che la vecchia guardia del rock satirico e demenziale sta un po' tirando indietro il culo e sì, quindi ma... noi ci stiamo rifacendo, stiamo riportando in auge tutto quello che non si poteva dire? Sì, ma anche che qui in zona sostanzialmente non c'è nessuno. Non c'è nessuno, e per quello ho detto che se ne sentiva la mancanza, perché più che altro non c'era già nessuno. Hai prima. Indovinato. Vedi? La andate... cosa tragica è che sono dovuti arrivare i dinosauri del rock, vecchi del i Matusalem qui. Vero. Io terribile. Volevo specificare che alle 5 di pomeriggio io sono già a letto, anche alle 10 per l'altra mittente. E io ti ho appena fatto un cambio catetere in corsa. Esatto, e mentre le flebo qui si scambiano come le figurine dei Pokémon alle elementari, noi andiamo a sentire un primo singolo dei Pollen de Bonopolis. Sì, sempre con molta calma, perché io devo ancora preparare il CD, per cui chi sono questi Pollen de Bonopolis? Innanzitutto sono quattro bei ceffi, uno è già passato in radio sotto Mentite Spoglie quasi un anno fa, tra l'altro Music for You compie gli anni a marzo, 8. Wow. Tanti auguri, wow. Lele. Applausi. Non io. E buon compleanno Music for You. Non io, il programma. Cioè, cazzo, non si può dire niente. Vabbè, andate avanti, ma il programma è vostro. Fate. Okay, grazie. Okay. Allora, lasciamo condurre i Pollen de Bonopolis, visto che ce l'abbiamo Finalmente abbiamo il nostro programma radio. Senza colpe è riuscito. Ce l'abbiamo fatta. Non hanno sovvertito il mio piano. Il programma è vostro. Allora, che cosa andiamo ad ascoltare? Innanzitutto, parliamo di questo parto sofferto che è il vostro lavoro discografico. Come nasce? Sconcia ha tirato su le sopracciglia di 20 metri su parto sofferto. Sembravo Ancelotti. Non so se avete presente il sopracciglio di Ancelotti. Quando questa cosa ha visto la luce? Seriamente, è tutto nato per gioco, per scherzo. Ci siamo trovati un giorno, una bella sera, in sala prove, facciamo una suonata di qua e di là, proprio in amicizia, senza nulla di preciso in testa. E poi la cosa nasce cosa? Semplicemente abbiamo visto che l'alchimia era affinità elettive, alchimia, c'era qualcosa da dire, qualcosa che ci nasceva dentro, che doveva essere per forza espresso. Che cazzo avete mangiato? E non era un catetere. In realtà abbiamo visto che siamo stupidi, sostanzialmente. Sulla stessa frequenza. È quello, sì. Abbiamo siamo guardati e abbiamo detto: siamo veramente quattro idioti, uno più idiota dell'altro, e dobbiamo fare delle cose idiote, dobbiamo far ridere la gente, e dobbiamo soprattutto ridere noi della gente che ride di noi. Il passo successivo, no, quindi è un partito politico, sostanzialmente. Esatto. Sì, okay. Esatto. Hai proprio azzeccato in pieno, cioè, il nostro progetto. Se voi sarete candidati alle prossime amministrative, proprio sappiate che avete il mio voto. Abbiamo già vinto. È già dato. Sì. Abbiamo già vinto. Concia il nuovo ministro degli esteri, lo sapevi? Possiamo parlare del... No, dai. Vogliamo parlare della Libia? No, parliamo del vostro EP. No. La Libia, lo sappiamo tutti che non esiste più, con le bombe atomiche lanciate in settimana. Parliamo di Gallina Vecchia Fa Schifo, perché questo è il titolo esemplificativo dei Pollen de Bonopolis. Cioè, non è che vi porto un titolo, nonostante l'EP... Posso un attimo creare, certo, di, certo, disagio, perché Amazing Old School Rock and Roll Band, cioè, che è quello che siamo, che è quello che siete, cioè, vedi il titolo in inglese, dice anni, gli ennesimi che cantano in inglese e mi arrivano. No, noi cantiamo in italiano, suoniamo in italiano soprattutto. Parlate il linguaggio della gente comune. Noi gli accordi li chiamiamo la, sì, do, non C, F, quelle cose tipo F sharp, no, è fa diesis. Drop D. Cos'è il drop D? È una goccia di D. Invece cos'è sta gallina? La gallina vecchia che fa schifo è Sofia Loren. Oh, perfetto. Bene. Vogliamo parlare un attimo di questa canzone? Cioè, le liriche, le lyrics. Chi è il putpurì di cervelli che genera i testi? è il mio socio Paul Sconce. Prego, Paul Sconce. Sì. Vuoi sapere qualcosa in particolare? Sì, su questa canzone. Sì, sì, poi una trattazione tematica. Semplicemente noi ci siamo trovati di fronte a questa realtà, al fatto di esserci rotti le balle, se si può dire balle in radio, certo, si può, sì, coglioni, in realtà, dire di peggio. E essersi rotte le balle di questa signora, questa nonna, nonna. Che potrebbe essere mia nonna, anche se anch'io ho un'età ragguardevole, però potrebbe essere mia nonna, e decide così di farsi vedere in giro come una splendida ventenne avvenente, probabilmente cioè lei crede veramente di essere ancora figa e non si rende conto che invece, come dire, posso dirlo? Sì, beh, dai. Dillo, fa cagare. Hola. No, cioè, finalmente. Qualcuno ha visto come era conciata Patti Pravo a Sanremo? Cioè. Vabbè, per fortuna ero via. La settimana delle feste del Sanremo, per fortuna ero all'estero, non ho visto nulla. Cioè, siamo sulla falsa riga. Cioè. Sì, sì, vogliamo parlare di Cher? Cioè, siamo là, sostanzialmente, tra una cosa e l'altra. Sì, no, è quello un po' il concetto. Il concetto, allora, è quello. Abbiamo detto, ma perché? Perché devi... Cioè, dimostra l'età che hai, cioè, potresti comunque essere una... Cioè, non so, mi viene in mente Virna Lisi. Virna Lisi è una bellissima donna. donna, pur dimostrando l'età che ha. Questa, se, cioè, non so, sembra una velina zoccola di 80. Cioè, e poi il portoricano è 18 anni, se paghi, c'è, cioè, comunque, per cui non farti sì, problemi. Sì, ma infatti, ma infatti. Dai, mo. E infatti, ma poi comunque il portoricano di 18 anni è la classica cosa che ti incarti e ti porti a casa. Sì. Questo colgo l'occasione per parlare del prossimo singolo che uscirà a breve dei Poland and Monopolis, verrà presentato probabilmente, non so se già nel prossimo concerto, ma dal titolo Toy Boy, parla proprio di questa cosa. Ah, ragazzo giocattolo. Bravissimo. Ma guarda, di queste ed altre tematiche proprio interessanti, della crisi libica, gli interventi di Frattini e l'oroscopo di Paul Bresny, continueremo in corso di puntata con ospiti Paul De Bonopolis. Intanto andiamo a ascoltarci la prima traccia del loro EP, si chiama Gallina Vecchia Fa Schifo, e presentarla è un grande onore. Tutti quanti continuano a dire che sei figa. Ma vorrei capire se tutti questi vorrebbero vedere la tua figa. Forse ieri, oggi e domani, con un macello sognante per te. Capisco perché ancora te ne vai in giro come se fossi una figa. Ma quando hai fatto Miss Italia la gente andava ancora in giro con la biga. Devi ammettere che hai metà. Hai paura di Gallina Vecchia Fa Schifo dei Pole de Monopolis. Siamo ritornati in Music for You for Radio Share 97800, Radio Sandonà 102.2. Quello che non sarà un trampolino di lancio per questa ottima band della Bassa Piave, la vostra prima ospitata radiofonica, immagino non ne siate molto contenti, ma vabbè, cioè, poteva capitarvi anche di peggio. Vabbè, certo, poteva capitarvi anche molto di meglio, E quello è sicuro festa, sicuro, per esempio, no? Potevamo finire a Radio Maria o essere sparati sono stati due decimi di secondo. O essere sparati in Libia con un cannone. O una festa ad arco. Ecco, anche. Beh, dipende dalle prospettive. Una festa ad arco come Giovanna, nel senso come che ti bruci in piazza. Un pane e vino a marzo. Una festa in Libia, per esempio. Una festa in Libia. Anche lì ti bruci in piazza. Fa voto, per sì. cortesia, procedi. Allora, no, innanzitutto io vorrei fare un piccolo commento sulla canzone precedente. Noto una grande capacità di creare rime con figa, cioè biga, non mica cazzi, biga. Era un riferimento alla biga alata, tra l'altro, voi filosofica. Voi state mettendo in bocca delle cose che io non ho mai detto. Cioè, veramente scusaci. Siete faziosi. Rivolgiti ai tuoi organi di stampa preferiti, poi facci sapere se sono le sedi opportune, ovviamente. Lui e il mio collega Giulio non a caso ha detto certamente, voi due sapete a cosa ha fatto riferimento. Ovvio. Beh, innanzitutto io vorrei dire, e qui vorrei introdurre un po' quella che è la storia ne vero dei Poland Bonopolis. Innanzitutto, cioè, c'è da dire che i due figuri che abbiamo questa sera in radio sono un po' le colonne portanti di quello che è il rock della nostra città mondiale. Sì. Siete una vecchia conoscenza, dai, ce lo diciamo. Provenite da diversi gruppi, per cui dai, sparate le vostre storie. Io e il collega abbiamo iniziato 94, credo. 94, poi abbiamo iniziato assieme nel 96, quindi sono 15 anni che in realtà che io 96. E sconcio, facciamo musica assieme ai tempi dei The Act. Chi se li ricorda di Act qua, se non è? Io e il Favoto non alziamo la mano. Poi le cose sono sviluppate, ci siamo separati, abbiamo preso strade diverse. Io ho fatto parte dei Sertali. Chi si ricorda i Sertali qua? Io. Questo c'eravamo. Ti ho fatto il sito web. Certo. Lo ricordo molto bene. E ti ringrazio ancora adesso per quel sito. Non capisco perché non l'abbiate denunciato. Pensa che mi hanno dato anche 50 euro. Avrei dovuto denunciare, prima di denunciare Daniele, avrei dovuto denunciare quello con la testa gigante che cantava nei Sertali, al quale va un mio grosso saluto. Sì, Albert Einstein. Ciao Albert. Anch'io lo saluto. È che per la testa che ha quel ragazzo lì, quel Vazzo lì, ci vorrebbe un salutone grosso. Pensa che non è mai passato in radio il Vazzo. Ma dai, siamo venuti. Ah no, tu non c'eri. Abbiamo fatto una puntata radio con i Sertali ancora ai tempi. Io chissà dove stavo. In Libia, probabilmente eri in Libia. Probabilmente eri in una superstrada. O a fomentare rivolte nel Maghreb. Esatto. E a mungere i famosi dromedari. Esatto. Andiamo avanti con la storia, dai, va là, che i tempi stringono. Eravamo fermi ai Sertali. Sertali, mentre lui militava nei Sertali, io passavo il mio tempo a roccheggiare con sempre con gli Act, che poi hanno continuato anche senza Giulio per un bel periodo, e poi abbiamo formato quelli che sono stati per un paio d'anni i Boos e poi General Sherman, gruppo recente, direi, oserei dire ancora in attività, però siamo un attimo in stallo. Poi sai, le energie adesso sono tutte portate via dai Poland Bonopoli, non mi lasciano un attimo, mi chiamano tutte le ore, cioè, devo scrivere testi, devo fare rime con figa, ma che possessivi che siete. Sì, è vero. Riga, liga, diga. Così, 4. Per esempio, questa così. È una canzone grazie. Nuova di Bolt. No, se vuoi. Una domanda invece, con una discreta serietà, ne è vero? Le influenze musicali rimangono quelle nel tempo? Cambia qualcosa nei vostri ascolti dal 94 in qua? Moltissimo. Allora, al di là dei grossi, dei grandi classici che comunque continuo ad ascoltare, personalmente continuiamo a rubare idee, sostanzialmente. Siamo in realtà la più colossale cover band, la drata, di zucchero. E peggio dei tra l'altro una canzone su zucchero, scusate, ma qua ci parliamo degli affari nostri. Dimmi, una che su zucchero, fatela, no? potremmo farla. Io continuo a dire che dell'ultimo singolo non ho capito un'emerita mazza, ma neanche lui probabilmente. Nemmeno Zucchero l'ha capito. No, parlando dei ti sputo in bocca se non ti piacciono le mie canzoni. Parlando degli ascolti, ultimamente sto coprendo un po' alla volta il personaggio Jack White. Che peccato. Quindi, che peccato che questa sera non sia qui con noi. Esatto, no, soprattutto avresti che avresti potuto invitarlo, voglio dire. Insomma, abbia divorziato per una seconda volta da Meng, sostanzialmente. Che si sono spaccati. Vabbè, insomma, anche Albano e Romina Power. Anche Albano e Romina hanno divorziato. Anche Silvio ha divorziato. Sta divorziando. No, questo non è Silvio, vero. Non è vero. Questa è una cosa che tu stai dicendo, ma non è vero. Non sono un giudice comunista, no, va bene? Sei un bolscevico. Bolscevico, vergognati. Molto probabilmente, se va avanti così, potrebbe telefonare in trasmissione. E noi speriamo anche. Cioè perché Silvio, chiamaci, telefona. Mi si dice che anche Masi potrebbe essere al centralino in questo momento. Però, vabbè. Anche il mostro di Foligno. La linea editoriale di questo programma non è nostra, per cui facciamo riferimento al nostro direttore. La linea del programma è dei Paul and the Monopolis, quindi decidono i Paul and the Monopolis che cosa si può dire e che cosa non si può dire. Comunque, tornando alle influenze, io dico Jack White e dico Dead Weather. E lì ti stoppo, infatti, ecco, bravo, ci sei arrivato da solo, volevo collegarmi, ma chi mi porta la prima traccia degli ospiti? Me la porta il Cozza a questo punto, o la porta anche lo Sconcio sottoscrive, ma però la porta sotto il Cozza. Un super gruppo che mi arriva dagli Stati Uniti, con formato da Jack White, poi c'è la cantante dei Kills, esatto, uno di Queens of the Stone Age, chitarrista di Queens of the Stone Age e bassista dei Raconteurs, altra creatura di... Sì, controllo, Jack, confermo White. Tutto quanto, e anche dal Jack White più volte nominato. L'album si chiama Horrend. Primo album dei Dead Weather. Davvero carino, noi avevamo messo Treat Me Like Your Mother un po' di mesi consiglio fa. Consiglio anche il secondo album uscito un annetto fa, Sea of Cowards. Molto interessanti, band molto molto interessante. Anche perché anche lì c'è un putpurì di cervelli non mica da poco. Ah, sì. Io sono un amante forsennato dei Kills, per cui cioè, non può non piacermi questa cosa. Anche loro hanno appena licenziato i Kills il nuovo album. Noi nel frattempo andiamo a ascoltarci da Horrend dei Dead Weather, I Cut Like a Buffalo, un titolo che potreste anche tradurre in italiano e piantarci sopra una bella canzone su zucchero. Taglio come un bufalo. Via subito, Music for You. Just like a woman, cut a record on my phone, then you I Cut Like a Buffalo di Dead Weather. Siamo tornati in studio a Music for Youth. Questa è una puntata con i Pole de Monopolis ospiti, ma ci prendiamo un filo di parentesi dalla band, perché dobbiamo stare veloci. D'altronde di boiate ce ne sono tante da dire, quindi ce la sbrighiamo io e Favotto, mentre i Pole si ripigliano. No, non è che si ripigliano, stanno in effetti tagliando un bufalo e quindi, se, tenendo conto dei 4 quintali dell'animale, questo implica un po' di tempo. Poi d'altronde si era detto che Sconge è esperto nel nei tagli suini. No, cosa avevamo detto? Che stava, no, a massaggiare, esperto nella mungitura, del cammello. Cammello iniziando dal dromedario. Mungere un bufalo, scusatemi, cioè, no, ma non credo sia così. Questo multitasking, soprattutto per la palentela che lega il bufalo al dromedario. Al cammello. Una faccia, una razza, come diceva quello. Come sul Mediterraneo, più o meno, che è un grosso film di Salvatore, se non mi ne avrò visto 27 volte. Anche i libici. Dice, cazzo, ridi, prete, no, gli diceva Batantuono. I libici, scusate, ma vedi che Ritorno al Futuro aveva visto i terroristi libici. Cioè, i libici D'altra parte non puoi andare a rubare del plutonio ai terroristi libici per alimentare una macchina del tempo creata con una DeLorean. Ve lo dicono anche i White Lies. Comunque questa è una questione molto più grande di noi, è bigger than us la questione, sì. Ed è anche il nuovo singolo dei White Lies. Sì, White Lies, che sono stati ospiti a Music for Youth una serie di volte, due, sì. Se puoi per cortesia specificare, che nel senso che li abbiamo messi, perché sì, i nostri unici ospiti grossi chi sono stati? Simofonic. Mi veniva Giuliano Ferrara, ho lasciato perdere. È passato un attimo per la porta, molto a me. Dove? I Motel Connection a Sherwood. È vero. Presenza, non presenza, assenza, non assenza. Eh sì, e quella volta un tre ore di DJ Shet, che non, per cui non finiremo mai di ringraziare la produzione. No, anzi, speriamo di rivedervi tutti al Radio Sherwood e al Sherwood Festival del prossimo anno. Ma prima parliamo di White Lies. White Lies sono alla seconda fatica discografica dopo un primo album che ha regalato dei successi. To Lose My Life, che prende un po' le mosse da quello che era stata la scia tracciata soprattutto dagli Editors, come anche dai Franz Ferdinand e dai primi Block Party. Un suono che però un po' pesca di più nella New Wave anni 80, quindi il filone Joy Division, New Order e compagnia cantante. Ora tornano con un nuovo disco che forse potrebbe piacere. Io e Favotto non l'abbiamo ascoltato, sappiamo solo che si chiama Rituals. Avevamo messo Death e Farewell to the Fairground dall'album precedente. Ora andiamo a ascoltarci questo singolo. Non so se è esemplificativo delle sonorità che troverete all'interno del nuovo album, ma nel frattempo dai, è comunque più grande di noi. Esatto, Bigger Than Us, The White Lies su Music for Youth. Big Avernus dei White Lies, siamo tornati in Music for Youth Ospiti, Paul and the Monopolis. Favotto, è il tuo turno. Sì, stiamo continuando a esplorare le origini musicali di questi Paul and the Monopolis per arrivare a quelle che sono le coordinate del progetto, appunto, Paul and the Monopolis. E andiamo a presentare il prossimo pezzo, che ci dicono essere uno dei capisaldi tra gli ascolti di Paul. Tanto vorrei specificare questa cosa: quando dici Paul non sai mai in realtà a chi ti riferisci, perché noi siamo tutti Paul. C'è Paul Sconcio, c'è Paul Giulio Cozzo, cioè, soprattutto il problema nasce quando uno pensa a chi diavolo sono i Bonopolis. Sì, infatti, questo è il problema. L'etimologia, cioè, vogliamo dire qualcosa riguardo al nome, è la classica domanda che fa Favotto. Perché vi chiamate Paul de Bonopolis? Esatto, allora, perché vi chiamate Paul de Bonopolis? Citando un nostro carissimo amico, di cui non facciamo il nome. Per rispetto. Vabbè. No, c'è stato un rigurgito d'acqua su carissimo amico. No, è realmente un carissimo amico. Cioè, allora, il problema del nome Bonopolis potrebbe derivare da un famoso personaggio televisivo, in realtà. Ma certo, potrebbe anche derivare da un famoso gioco da tavola. È vero. Cioè, questo lo lasciamo alla fantasia degli ascoltatori. La grande verità è che il personaggio televisivo ha tatuato sulla schiena il gioco da tavola. Questo è vero, e il problema è che immaginarmi il personaggio televisivo disteso nudo su una tavola mentre gli altri giocano a questo famoso gioco sulla sua schiena, fa veramente fa un po' schifo, ribrezzo. Che bella immagine. Viene da domandarsi dove metti gli alberghi, tra l'altro. E soprattutto dov'è Parco della Vittoria in questo caso, o dov'è Vicolo Stretto. Due suggerimenti ce li ho, sì. Ed è più o meno a livello della prostata. Per cortesia, continuiamo. Il Soundgarden in casa Music for Youth, questa è la scelta di Paul Sconcio. Però Sconcio, sì. Perché ci porti in Soundgarden, soprattutto con una cover? Semplicemente vi porto il Soundgarden per una questione affettiva. Cioè, è il gruppo che per me è sempre stato molto importante, l'ho ascoltato da sempre. Quando c'è stato il fenomeno, la rivoluzione, chiamiamola così, tra virgolette, grunge dei primi 90. Pensavo quella libica. Quella libica, sì. Beh, sì, è più o meno, siamo lì. La rivoluzione libica è grunge. È grunge comunque la rivoluzione libica. C'erano spade anche in quel caso. È rock, non è lenta, direbbe Celentano comunque. C'erano spade anche in quel caso. Kurt Ismail Cobain. C'è il Costa che è contento. Finalmente una battuta che è venuta sana. Bene, sì, queste cose poi si possono anche tagliare, vero? No. Perfetto. È come la battaglia dell'oppio, che è stata combattuta coi cannoni, lo sai. Sì, è chiaro. Dicevo, poi tra l'altro, sai, mi sembra di essere noi due quelle persone che devono portare avanti il programma, sì. No? E i due conduttori, e loro due intervengono e dicono delle cazzate ogni tanto. Io posso dire una cosa. Continuo ad avere questo adesivo qua davanti a me dei Gain on Top che mi sta bombardando, e Simofonic basta. Vogliamo fare un appello a Simofonic basta con gli adesivi. Prego. Per piacere. Torniamo ai Soundgarden. Io non ho mai detto Soundgarden comunque. Cioè, voi mi state mettendo in bocca delle parole che io non ho mai detto. Comunque, se proprio volete sapere Soundgarden, semplicemente vi dico questa cosa: quando c'è stata questa famosa rivoluzione non libica, bensì musicale, primi anni 90, grunge, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, eccetera, io ho preso immediatamente le parti dei Soundgarden, perché li adoravo, li adoro tuttora, li trovavo, sarà anche forse questa affinità un po' zeppeliniana che hanno in alcuni brani, in queste accordature che usano particolari. E poi, come ogni volta quando parlo di Soundgarden, dico sempre questa cosa: ho avuto la fortuna di vederli dal vivo nel 96, poco prima dello scioglimento dell'epoca, e credetemi, è stata un'emozione fantastica. Dove li hai visti? A Casalecchio. Casalecchio di Reno. Lui stava già con Natalie Imbruglia. Questi momenti di gossip. Questo è Chris Conner. Mi sa che è stato con la Imbruglia. Io credo sia Lenny Kravitz. No, anche Lenny Kravitz. E su questo siamo tutti chiamiamo sicuri. Chiamiamo Signorini. Perché io non ho mai detto Signorini. Poi chiamiamo Simofonic. Va bene, dai, andiamo a ascoltarci Soundgarden. Questa è Rusty Cage. Grazie, Sconcio, per averla portata. Thank you. Rusty Cage dei Soundgarden, siamo ritornati in studio, questa è Music for Youth, ospiti i Paul and the Bonopolis nella consueta ora settimanale in onda su Radio Share 187-800, Radio Sandona 102.2, recuperate questa puntata, tutte le altre in streaming MP3 podcast sul nostro gruppo Music for Youth on Air in Facebook o su www.musicforyouth.wordpress.com. Alvise Favotto, ti ho esautorato le tue funzioni settimanali rispetto ai contatti, ma i tempi sono lunghi e i Pole de Bonopolis scalpitano. Esattamente, a questo punto noi stiamo per presentare quello che è il prossimo pezzo, che è Action Man Ventura. Quanta meraviglia! E io vorrei che qualcuno ci parlasse un po' di questo pezzo, qualcuno tra voi due. Ma io lascio volentieri, allora, nonostante le liriche siano mie, ma lascio volentieri... Le rivendichi. No, ma le rivendico chiaramente, però l'idea iniziale, comunque la scintilla, lo spunto viene dal mio collega Giulio, cioè in realtà... È Giulio che è sceso in campo. A testa sul cazzo lei, no? Sì, in realtà per tante cose che riguardano i Pole and the Bonopolis e i testi dei Pole and the Bonopolis sono io che cerco di esprimere la rabbia è proprio il fastidio che mi dà certa gente sostanzialmente. Okay. E ho la fortuna di avere Sconza che è in grado di mettere sotto forma di parole, di testo, di lirica questo fastidio. A chi ci riferiamo stavolta? A Simona Ventura. Ah, ok. E cos'ha Simona Ventura che tanto ti infastidisce? Il fatto di essere Simona Ventura. Cioè, tu pensa a Simona Ventura così come la vedi, è già fastidiosa. È improponibile. Cioè, dai, ragazzi, basta. Io vi do il suggerimento. sono 20 anni che rompe i maroni quella donna lì. Io vi do un suggerimento, Fioi, stui a televisione, cioè io non la guardo mai. Ma non è questione, cioè, tra l'altro comunque. Voi volete stenderla in ogni caso, cioè, sì. vi do ragione in ogni caso, comunque. Cioè, va estinta in qualche modo, hai capito? Pensionata, rinchiusa in un cubetto, esatto. No, tu la vorresti lasciare tipo a guardare ogni giorno l'alba e il tramonto da un 3 centimetri all'interno di questo cubo di 2 metri per 1? Sì, ma non ci capirebbe una mazza, hai capito? però tu, da un certo punto di vista, la vorrei comunque qui e attiva, perché la vedo come l'arma finale contro una ipotetica invasione aliena. Ah, pensavo libica. Gli alieni arrivano, penso agli alieni che arrivano sulla Terra e vogliono invaderci, distruggerci, vedono. Questi maledetti terrestri sono una razza intelligente e terribile, sono cattivi e terrificanti. Vedono Simone Ventura e dico: ma qua sono deficienti totali, torniamo a casa. Via. In ogni caso, ricordiamo che ci sono sempre i giapponesi che noi deridiamo, però loro, secondo me, zitti, quanti. Hanno già i robot pronti per un'eventuale invasione. Goldrick, robot a forma di Simona Ventura. Tra l'altro. Andiamo a sentirci Action Man Ventura. Questa è la seconda traccia dall'EP dei Pole Monopolis. Io auspico che Simona Ventura si rimetta con Gianluca Pagliuca. Questo è un mio. Vai, Gianlu, dai, cazzo. Pagliuca, pensaci. Lentamente delina verso il seno. Action Man Ventura di Paul De Bonopolis, i grandi temi di attualità della politica, del mondo, della crisi libica. Questa è Music for Youth nella sua consueta forma settimanale e ultra sviluppata, developed version con i Paul De Bonopolis. Devo dire che per questa puntata noi trasmettiamo dall'Isola dei Famosi. Sì, e c'era l'avventura per l'appunto che ci stava dietro. No, l'avventura è in studio. Noi siamo i famosi e quindi e noi, certo. C'è tutto. Noi siamo l'isola, noi siamo la parte non famosa. Sì. Noi siamo gli, proprio quelli mandati, come cavolo si chiamava? Tipo il Tugurio, quelle sì, cose. Sì, no, quello è sul Grande Fratello, secondo me. Scusami. Però noi siamo quelli che sono scappati dalle edizioni precedenti e si sono rifugiati in un angolo dell'isola a mangiare cocchi. Viviamo come il Signore delle Mosche. Sì. Non so se siamo finiti all'isola di Lost, probabilmente. Chi è che l'ha visto qua Lost? Io sono l'unico. Io l'ho visto. Bravo, sì. Bravo, vedi, ma figurati sta gente qua, non sta neanche a guardarli in faccia quando esce allo studio. ti dice che Lost, no, mi fa schifo. Bravi, non batte, continuate. Guardatevi avventura, complimenti. Simofonic, vieni ad aiutarci, ti prego. Sì, infatti, ma perché perdere abbiamo tempo bisogno di adesivi Simofonic. Siamo tornati in studio a quanto pare da 2 minuti, ce ne siamo accorti solo ora. Bene. E si parla della nostra famosa proposta settimanale che torna dirompente nella nostra programmazione. La portata fa voto, le responsabilità se questa tazza fa schifo è sua, cioè sono sue, ma anche se è carina, per cui sì, sono gli Apex Manor, un gruppo al primo disco, anche se ci sono sforzi ambivalenti che li portano a generare della musica. Apex Manor, un rock and roll abbastanza veloce, però nel suo essere discreto, diciamo. Non ho altro da dire, ascoltatevi. Io penso seriamente che tu sia pazzo. Vuoi che ci sia vuoi una nota? No. Che se vuoi, la recupero, cioè posso anche stare veloce. No, sostanzialmente questo qui si è chiuso in una casa, non so per quale motivo. Un blogger gli ha chiesto: per cortesia, componetemi una traccia. Sto qua è andato lì, gli ha composto la traccia e poi è partita tutta la storia di Apex Manor, che non so neanche da dove vengano, tra una cosa e l'altra. Forse tu ne sei più informato di me. Sono inglesi, li ho scaricati in realtà, non è che li ho comprati, devo dire. Male. Beh, li ho scaricati comunque da un sito libico che te li dava con della mortadella di cammello. Pagato. Fascista. Okay. Ignorante e fascista. We'll be right back. Teenage Blood degli Aphex Manor. Siamo tornati in Music for Youth. È in finale di puntata. Sono ospiti i Poland e Bonopolis ancora per poco. Ed è giunto come al solito il momento di fare i ragazzi seri, quali non sono. Per cui trasmutatevi, trasformatevi per due minuti secchi e promuovete tutto quello che dovete promuovere. Questo weekend mi pare ci sia pure una vostra esibizione. Sì, esibizione. Dicono, abbiamo visto passare dei cammelli con delle date ancora pieni di latte, sconce, mungici, avvolti nella bandiera libica. Questo è il momento fatti seri. Noi stiamo parlando di gravi problemi internazionali, in realtà, tra l'altro. Comunque. Questo weekend, esattamente sabato 12, ci sarà questa nostra splendida e accattivante, nonché sexy performance alla Casta, San Donà di Piave, via Ancillotto, credo sia. Specifica. Via Ancillotto, accanto alla pizzeria Tortuga, tutti conoscono la pizzeria Tortuga. E guarda a Padova poi. Vabbè, ma nel senso, ho detto San Donà, via Ancillotto, accanto alla pizzeria Tortuga. Domandate. Più preciso di così non posso essere. Saremo noi con questa performance live. E guarda caso saremo affiancati da questo DJ emergente di cui forse avete sentito parlare. Colatelo nell'acido, vi prego. Che risponde al nome di Simofonic, la metà dei Gain on Top. Promette che nel mentre voi vi esibirete live, lui appenderà adesivi ovunque, in tutta la Casta. Ci sono altre date, mi pare, in cantiere, più o meno. Ce ne sono previste ed impreviste. Ce ne sono, ma si parla fra un bel pezzo. Di sicure adesso ne abbiamo a maggio. Però non c'è ancora l'ufficialità, quindi poi le troverete tutte. Lo spunto, infatti, le troverete tutte sul nostro MySpace, che è www.myspace.com/polandebonopolis, oppure sulla nostra pagina Facebook, che è Polandebonopolis artista gruppo. E per i non anglofoni, Polandebonopolis è Paul and THE Bonopolis, e Music for Youth è YOUTH, sempre per i non anglofoni, che nessuno ci ascolta perché non hanno ancora capito il titolo, per cui quando ci cercano in internet saluti sostanzialmente. Anche voi scegliere nomi anche complicati, colpa mia. IUF sarebbe IUFF. Questi erano i Poland e Bonopolis. Siamo arrivati alla traccia finale. Volete dare qualche altro contatto? Vedo qui sull'EP, anche no. I contatti internet sono credo più che sufficienti. Poi per quanto riguarda il nostro EP, o lo trovate direttamente alle serate, oppure ce lo potete richiedere messaggino, anche in bacheca. Ci sono altre due tracce che non sono state. Ci sono altre due tracce notevoli, direi. Le potremmo anche citare. Una è Rispetta alla Capra, dedicata al nostro Vittorione Sgarbi. E l'altra è il nostro cavallo di battaglia, che è Cicogna dello Sperma. È dedicata a niente meno che a Paolo Bonolis. Andiamo con l'ultima traccia di questa sera. È un super gruppo che ci portano i Poland e Bonopolis. Eppure questi agli Stati Uniti. Per cambiare un attimo, voi altri, fa schifo? No, in realtà. Il bassista è inglese. Comunque. E viene da altro super gruppo, ma proprio inglesissimo e colonna portante del rock. Jumbo Jones, bassista di Zeppelin. Dave Grohl, che viene dai Foo Fighters, e prima ancora Nirvana, e Josh Homme. Qui devo dire altro. Siamo in presenza dei. Ma chi è che li porta? Chi è che l'ha portata? Li ha portato il mio collega Scons. Scelta congiunta. Assolutamente sì. Tranne che Di Martino, che voleva portare avrebbe voluto portare Radiohead, perché tanto Martino o ascolta i Radiohead o non ascolta nulla. Vorremmo salutare appunto Martino al grido di meno Radiohead e più Motorhead. Ma anche salutiamo il vostro quarto componente. Marius, certo. Salutiamo il Marius. Povera bestia. Che ha subito da poco anche un'operazione. È diventato Roberta. Donna. Roberta. In quale viale la troviamo? Sulla Questa Salaria sconosciuta. Sulla Salaria a Roma. Viale del Tramonto. Andiamo a ascoltarci i Vem Crook Vultures con Elfans. Io ringrazio Paul De Bonopolis per averci supportato in quest'ora settimanale. Grazie a voi. Grazie a voi. ci risentiremo. Fabotto, sì, è sempre un piacere. È buono qui, è buono qui. E anche come su, il tè in fretta. E anche su un altro posto che ti mostro appena ce ne andremo da questi studi. Credo che sia dove c'è Parco della Vittoria. Bravissimo. Elfos di Van Crook Vultures, questa è Music for You. Ciao a tutti.